快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧。 听众朋友，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，请欣赏意大利作曲家威尔第的歌。听众朋友，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，请欣赏意大利作曲家威尔第的。 Tra voi, tra voi, saprò di me. quando non s'ammi ancora. Nel degno degno e il mio vestin così. Che vi turba? Sto meglio. A inconta guisa uccinerete averve d'uopo cura dell'esser vostro. E non potrei. O se mia foste custode veglierei per vostri soaviti. Ne dite a posti al volo una di me, perché nessuno al mondo ama nessuno tranne sol io. Ma è vero, sì, grande amor dimenticato mio. Vivete in voi un cor. Un cor, sì, forse, e a quello richiedete. Ma se ciò fosse, non potreste allora celiar. Dite davvero? Io non t'inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice e cercare da fine, non ho altro che te. vuol fare? Si folleggiava. Ma basta ben prestate. Amor, dunque non più mi garba il fatto. Io mo predisco, parto. Ad aggiungeste. Prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà appassito. O ciel, domani. Ebben, domani. Io son felice. D'amore vivi ancora. Oh, quanto, quanto amo, quanto, quanto. Io son felice. Thank you.

deve a schiavo ciascun di sua bellezza. E mor contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei a rinascer mi sento, e dal soffio d'amori generato scordo le gaudi suoi. Tutto il passa. Bollenti spiriti, il giovanile ardore, alla temprata al placido sorriso dell'amor, dell'amor. Dal dì che disse vivere, io voglio a te fare. Dal di che disse vivere, io voglio a te fedel. Ah, sì, dell'universo in me male, io vivo quasi, io vivo quasi in ciò, io vivo in ciò. In memore io vivo quasi in cielo, oh sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Era le lor cavalli cocchie quanto ancora possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a vive qui solenti. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna? Vinta Parigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora, di tutto valgo a riparare ancora. Ammaliato da voi. Quanto sono io, signora? suoi beni e gli dono vuol farvi. Non lo so finora, rifiuterei. Pur tanto lusso. A tutti è mistero quest'atto, a voi non sia. Scoprio d'ogni vostro avere, or volete spogliarvi, ma il passato perché, perché m'accusa? Io non esiste, ora m'affreno, ed io la canto. Or volete spogliarvi, hai passato perché, perché m'accusa? Io non esiste, ora m'affreno, ed io la cancello. Tutto troverò. Non so. sia pure, ma volubile sovente lunga. Corvincerà. amarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirammi. Allor. Qual figlia sarò. La prima di me ti ha preso, afflito il tre ogni dire, a sua confortati collaborerete. E pensate, sapendo il lupo resti al me, generosa è per voi che parlo sia e parlo sia o Dio, conosca il sangue. a chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. No, per ora. Mi perdona, sono io preoccupato. E tu? Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se vero scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerai in vederti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu la calma, ai miei risuoi, i miei mio non me vorrà. Sarei infelici, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero. Alfredo, perché piangi? Di lacrime a me a tuo, ma son tranquilla. Lo vedi, ti sorrido. Lo vedi, ma son tranquilla, ti sorrido. 听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱《罗马》。 北京人民广播电台有线古典音乐， 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来的时间中，请继续欣赏由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱、罗马歌剧院合唱团乐团演出、塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》下半部分录音。 Sol, su te splendere ancor può. sai quanto soffrì il tuo vecchio genitore e l'altaro di squallor il suo tetto si coprì il suo tetto si coprì di squallor di squallor ma se al fin ti trovo ancor se in me speme non fallì se la voce dell'onor in te appien non ammutì ma se al fin ti trovo ancor se in me speme ti trovo ancor Dio me saudì Mille servi, divorami il petto, mi lasciate, lasciarti, la vendetta, non più dote, partiamo, a fretta, a fuoco fuori, ascolti tu, no, colpo in mano provata, e gli alla festa, fuori si la presa vendica, I'm sorry.

è qui, il vedete? Cielo, è vero, il vero. A voi non un sol detto, si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Oh, quattro ancora hai vinto, sfortuna nell'amore, fortuna retta al gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera e l'oro va bagnato, o sciago dentro ai campi mi tornerò beato. Solo no. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la vi sfida c'è. La manca cento, un asso, un fante, hai vinto il doppio sia, un quattro, un sette, ancora pur la vittoria mia, bravo da te lo so. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici, poscia sarò qual brave. Andiam, andiam. Seguirai i passi miei. Ma non c'ho mai. No, fuggirai. Ma sciagurato, scorda un nome che infamato va mi lascia sul verdore fuggirmi il giuramento sacro feci. A chi? Dillo, chi potea? A chi dritto pietà mea? Fu tu fare? Sì. Dunque l'ami? Ben, l'amo. Or tutti a me. Questa donna conoscete che facesse non sapete. Taci. Ogni sua ver tal femmina per amor mio sperdea, io cieco via misa tutta cettarla mea, ma tempo ancora tergermi da tanta vecchia bravo guita stima. Testimon vi chiamo, or testimon vi chiamo, che qui, e qui pago l'alma, più non ragiono, dai perdono, più non avrò. Volle a fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto, son qui venuto, orché lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato rimorso. abbassar mi vo. Sentite. Soffre il mio corpo, ma tranquilla l'alma. Mi conforta il sera, un pio ministro a religione e sollievo. Questa notte ebbi tranquillo il sonno. Coraggio adunque, la convalescenza non è lontana. Oh, la bugia pietosa ai medici è concessa. Addio, a più tardi. Non mi scordare. La tisi non le accordo che poche ore. Aspirar pure mezzo. volli una gioia improvvisa, una cosa che cesti sì, oh signora, a te, a te vedessi, e vieni, e vieni, a te, a te, a te. Da questo palpito sia tamo in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vita, mai liberata, per me concedere non puoi di nuovo. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ne perdoni, l'aria sa mio, ma solo amor dal dirle in te. L'uomo debba l'angel mio, mai più dividermi potrà da te. Thank you. ben saprai. Ma tu la Il mio non lo cerri, troppo rimorso al Maria, qui non mi trai.